Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. Siete due bastarde nel senso buono che non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare. Parenzo, ho un mio idolo, un nuovo idolo, Mattarella. Caro Parenzo, no, che Mattarella, ah, non so. Noi abbiamo il presidente che va con la panda, abbiamo le suorine, abbiamo la messa, c'è. Abbiamo le poche parole, sì, un'Italia abbiamo, di messa, un'Italia, sì, un'Italia che noi praticamente in cui ce bisogna, n'era bisogno, devo dire, no, non lo so questo. Se c'era bisogno, sì, per te va bene, forse sei, un dire, po' di calma, ti piace questa cosa, no? E abbiamo Mattarella, uno deve stare lì, che cosa avrà detto con quella frase? Cosa voleva dire quando si rivolgeva, niente, quando si rivolgeva ai cittadini dicendo, dicendo sono attento, certo, ai bisogni, sono e attento alle difficoltà, certo. Cosa voleva dire? Beh, tu ti rendi conto, siamo nel 2014, siamo lì a fare il 15. Come dire, scusami, nel 15 siamo lì a fare l'analisi delle poche parole di Sergio Mattarella, sì, beh, bellissimo, divento pazzo, con la panda, io, con la panda pazzo, grigia, divento... l'Oden blu. Allora, noi abbiamo questo, beh, presidente, la panda grigia, le suorine, eccetera, sì. E poi abbiamo il mio nuovo idolo, si chiama Dominique Strauss-Kahn. No, immaginavo. Aspetta, amico, sta mio. Fa il mucchio, fa il mucchio quello, amico. Senti, mio. Mi basta questa frase, mi basta questa frase. Una delle testimonianze al processo che questo poveraccio sta subendo, tipo Gestapo sui costumi, tipo controllo sulle attività sessuali, una cosa pazzesca. Non so dove, a Lille, credo. A Lille. Senti questa testimonianza di una prostituta, di una gentile signorina che per soldi offre il proprio corpo liberamente. C'erano 7-8 ragazze intorno al letto. 7-8 ragazze. Dominique Strauss-Kahn, numero uno assoluto. Lui camminava nudo con il pene eretto. No. Poi, ma ti giuro! No, ho letto, sì, ho visto anche sul foglio tutto, ho visto la cronaca. Poi un carnaio, gambe, tette, culi sopra e sotto di lui. Non c'erano preservativi, questo un po' meno direi, però non so, magari c'erano poi, spero per lui. Numero uno, Dominique Strauss-Kahn, ingiustamente accusato di sfruttamento della prostituzione o cose di questo tipo. Piccolo indovinello delle 18:36 del lunedì, di inizio settimana, piccolo indovinello. Facciamo così, chi indovina per primo, tramite che cosa? Tramite un messaggio? Sì, facciamo un messaggio, riesumiamo gli sms, 349-238-6666. Chi indovina per primo? Ripetilo ancora però l'sms. 349-238-6666, poi basta che non ne posso più di questi numeri, 349-238-6666. Il primo che risponde in maniera corretta alla domanda che fra poco farò vincerà una maglietta, la mitica maglietta del matrimonio del professor Antonio Razzi. Ah, pensavo le altre magliette, diciamo. No, questa maglietta qua. Chi è che sbrocca in televisione? Vi faccio sentire due piccole frasette, magari ha ragione, sbrocca, poi vedremo più avanti, eccetera. Non accetta lezioni da lei, chiaro? Facciamo risentire, ti prego. Non accetta lezioni da lei, chiaro? con le vene di fuori, amico da mio. Da che parte stare, ovviamente, no, ma non... Zitto, no, vabbè, zitto, sì, no, non zitto, zitto. No, no, no, non svelo niente, figuriamoci. Seconda frasetta, vediamo se vi aiuta, eh. Seconda frasetta, chi è che sbrocca in televisione? Dobbiamo smetterla. Va bene. No, facciamo di sentire. No, è poco chiaro. Dobbiamo smetterla. Va bene. Ho uno già indovinato, eh. Addirittura. I primi tre, dai, i primi tre. Bene, 800 24 00 24. Renzi tratta Alfano e NCD come dei tappetini. Io ieri ho detto alla gabbia la nuova costola della sinistra. NCD. Perché, diciamo la verità, NCD NCS allora in questo caso. Sì, no, nuova costola della sinistra, vale anche la D, vale anche la D. Nuova costola della sinistra, diciamo la verità, non vi fate ingannare dalle frasi, le dimissioni, capogruppo, tutte stronzate. La cosa fondamentale è che NCD è un partito che resta aggrappato dove il potere, che è Renzi in questo momento. Renzi è in grado di distribuire prebende, strapuntini, posti da ministro, posti da sottoministro, eccetera, eccetera. E NCD che deve fare? Per cui, umiliato da Renzi, come ha detto Cicchitto, gli è, no, ci è passato con un piede sopra, ci è passato con un piede sulla faccia, non è in grado di rompere con Renzi. E addirittura Renzi dice: non discuto con le correnti dei partitini. Io non passo i prossimi mesi a chiacchierare e a discutere con le singole correnti dei partitini. Io nei prossimi mesi voglio stare in mezzo alla gente. E poi NCD si lecchi le ferite, va, si lecchi le ferite da solo. Io penso che oggi ci sia bisogno semplicemente di rimettersi a lavorare con calma. Chi ha da leccarsi le ferite si lecchi le ferite, ma io penso che non ci sia minimamente bisogno di aprire discussioni polemiche interne da nessuna parte. Allora, continuano le slinguate nei confronti del neo presidente Mattarella. Siamo a livelli veramente di saliva che straborda dappertutto, dappertutto. Al di là della geografia che si fa, agiografia, cioè della, no, dell'esaltazione del della vita, del sì, panegirico. Sì, sì. Per esempio, Orlando, il sindaco di Palermo. Mi sembra di capire che non ti piace no, molto. Ma no, presidente. Ma non è vero, perché poi le persone vanno valutate. Cioè, io ho già detto che è un vecchio arnese della sinistra democristiana, un catto comunista. No, ma è un giudizio sul passato. Sì, d'accordo. Il passato. Dopodiché poi vedremo quello che fa, eccetera. Orlando, sindaco di... Senti, ama i gatti. Beh, vabbè. Dissente con un lieve movimento del volto. Ma tu ti rendi conto, stupendo, no? Stupendo, stupendo. Gli italiani impareranno a scoprire che c'è un Presidente della Repubblica che ama molti gatti, che c'è un Presidente della Repubblica che ama molto la musica e molto leggere, e un Presidente della Repubblica che col tempo gli italiani capiranno quando dissente da un lievissimo movimento del volto. Oggi sembrava di assistere a una riedizione della Democrazia Cristiana ed è abbastanza triste, diciamo la verità. Al di là di quello che farà Mattarella, eccetera, abbiamo avuto in televisione Orlando, sindaco di Orlando. Vabbè, quello sindaco è di uno dei più giovani, diciamo. Sì, uno dei più giovani. Gerardo Bianco. Ecco, Jerry Bono. White. Beh, no, quello è stupendo. Pomicino, l'amico Pomicino. Beh, sì. E Buttiglione. E il comandante Rocchito, vuol senti, dire. Senti. Comandante Buttiglione. Senti. Gerardo Bianco, già buonasera. Segretario del Partito Popolare Italiano, ben arrivato, buonasera. Grazie di essere con noi. Nell'altra parte dello studio, l'onorevole Rocco Buttiglione, Area Popolare, Nuovo Centrodestra, UDC, abbiamo tanto da dire, insomma ce n'è per tutti. Parliamone. I gusti ne parliamo, Paolo Cirino Pomicino, già ministro della Democrazia Cristiana. Stiamo aspettando da Palermo, Leo Luca Orlando, uomo molto... Manca solo il signor Cencelli. Dai, ragazzi, l'amico tu. Cencelli, bravissima rendi, persona, il signor Cencelli. Ti rendi conto o no, dai. Tu ti ricordi il signor Cencelli con Emanuele? Sì, ho capito. Basta, la grande balena bianca ritorna con i suoi silenzi. L'understatement più assoluto. Senti, a proposito di litigate. No polemiche. A proposito no, di litigate. Polemiche. Devo no, sentire Salvini Alfano? Salvini Alfano? No, pensavo volessi far sentire Salvini. No, con no, la... no. Quello Salvini dopo? Con... No. Salvini Alfano, senti. La Lega è notoriamente contro le forze dell'ordine, invece il ministro Alfano sì, quello che tocca di Mentoro. Non ho voglia di fare polemica. E siete contro i vertici che tutelano la sicurezza del territorio, certo, a cominciare dalle prefetture. Certo. Gli avete bloccato gli stipendi con Maroni e lei non ha spiccicato una parola da quella boccuccia. Allora, ma non si agiti. No, io lei sono ha salvato la poltrona di ministro. Guardi, ha fatto io bene. Sono, se io posso sono finire un discorso. Siccome mi sembra che vada a recita, si interrompa, non perde il filo e faccia il bravo ragazzo che riprende il filo da dove l'aveva. Prego. Salvini, prego. Capisco la figura di Palta, però mi lasci finire il discorso. Fai ridere i polli. Posso? La prego. Prego, guardi, non ho intenzione di litigare con lei, lei non mi interessa. Scusi, ma ho intenzione di parlare allora, con chi ci guarda a casa. Posso? Salvini, posso parlare scusami, con no, Salvini, prego, no, scusa, no, scusa, Salvini per è in prima la serata. Prego, no, scusi, per no, Salvini è prima serata, scusi, ma il collegamento è il diritto di completare. Scusi, ma siccome gli sta allungando il naso che sta arrivando a Palermo, il suo naso, allora ha detto che non gli interesso io ed è da 5 minuti che parla di me. Allora rimettiti il naso a posto e riparla di Mattarella di cui vuoi parlare. Intanto in Veneto fa discutere una frase pronunciata qui da noi alla Zanzara la settimana scorsa da Oliviero Toscani sui veneti ubriaconi. Insomma, hanno l'alcol nel DNA, questo dice Oliviero. Senti, quando parla il sindaco di Padova benedetto di Dio che atavicamente da ubriachi, un accento da alcolizzati il Veneto, sì alcolizzati atavicamente, non loro personalmente ma nonni, padri. Allora, dopo il traffico abbiamo con noi Paolo Crepè, tra un attimo. Molto bene. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara è il più grande bar d'Italia. Allora ragazzi, il mio nuovo mito, Dominique Strauss-Kahn, processato incredibilmente per prostituzione o cose del genere. Beh, la cosa incredibile, no, la cosa incredibile è che ci sono dei testimoni che sono delle prostitute che sono pagate, che poi raccontano di essere andate lì come se fossero andate a una cena di gala, no? A un convegno del fondo monetario. Sì, una dice: trovavo che l'atmosfera fosse davvero bestiale. Mi sembrava strano vedere dei tipi passeggiare nudi gli uni vicini agli altri. Ma come ti sembrava strano? Non è che stanno lì a fare, no, a giocare a poker. Alcuni si masturbavano senza vergogna. Ero puro consumo sessuale. Bah. Allora, Paolo Crepè, ciao Paolo. Molto bene. Saluti. Eccoci. Bene. Senti, io trovo assurde queste cose qua. Adesso, al di là delle accuse a Strauss-Kahn, trovo assurdo che ancora ci siano dei processi per cose di questo tipo. È più un processo al potere più che un processo alla... più che un processo alla... ed è anche un po' pericoloso, perché il processo alla sessualità di Strauss-Kahn, adesso, al di là del fatto che alcune ragazze, lui sapeva, non sapeva, erano pagate o no, no? Non trovi? Sì, però uno che vuole rappresentare il fondo monetario, insomma. Beh, sì, quello è chiaro. Sì, no, cioè perché insomma, se uno fa il falegname può fare quello che vuole, tutti i corridoi che vuole. Se vuole rappresentare un'istituzione così sensibile alle nostre tasche, insomma, un po' di così. Gli avvocati dicono che bisogna essere un po' attenti. No, no, cose. Ma non c'è dubbio. Quindi che mi pare che avesse anche l'età per esserlo, no? Non è un... Beh, sai, quello devo dire che sono un po' invidioso, soprattutto di quella scena descritta da quella prostituta, ma... in cui lui attraversava la stanza con membro eretto. Come Beh, dire, no, deve essere stata una visione indimenticabile. Sì. Che poi, insomma, il signor Strauss-Kahn non è nemmeno così, come dire, no? Non è nemmeno così prestato. Sì, no, forse tu dici era in preda. Ma dicono che ci siano queste sfilate con i modelli, no, ignudi dall'ombelico in giù, che forse erano più carini, no? Vabbè, sarà stata una visione da parte di queste signorine, no? Di queste signorine. Sì, ma tu, sì, tu sei mai andata a prostitute, per esempio, Paolo? No, guarda, non lo ricordo più, nel senso che ho un'età in cui... No, ma sei andato una volta a prostituta, no? Ma bisogna confessare che la psichiatra sia normale. No, ma figurati, avevamo una Volkswagen, ragazzi, facevo il liceo, non c'avevo neanche la patente, andavamo, poi in realtà non succedeva niente di che. Cioè non hai mai pagato? Andavamo fuori, sì, perché io vivevo in una città, Padova, che era, in cui era molto morigerata, come voi sapete, Parenzo lo sa, e quindi dovevamo andare oltre Alpe, perché Innsbruck o l'Austria era il luogo della perdita. Beh, ma ho capito, hai mai pagato per fare sesso? No, non ho capito. No, ma certo, ho pagato, però insomma non mi ricordo questa situazione in cui ridevamo tutti. Era una cosa molto gogliarda. Come avete fatto? Che avete fatto? Mucchio? Niente, fatto una mucchiata? No, che era questi luoghi, erano i vecchi luoghi, casini. I casi vecchi sono nuovi, esistono ancora, no, in Austria andava, sì, però sì, negli anni 60 esistevano ancora, no, ma anche adesso esistono in Austria, te lo posso segnalare, cioè te ne segnalo, sì, anche te ne segnalo, no, anche di ottimi. Ma chi gli frega il professore adesso, scusi. A Klagenfurt mi manca professore, guardi che il professore Crepè a Klagenfurt, devo aggiornare la mia app. No, ma guardi che a Klagenfurt. Ma non gli interessa. No, gli interessa sempre tutto, anche per sola curiosità. E volevo dire che a Klagenfurt, vicino al confine con l'Italia, c'è un enorme... C'era un amico che andava sempre a puttane e diceva che faceva degli studi di sociologia. Beh, quelle sono così le scuse, diciamo, no? Vari VIP della politica e del giornalismo italiano e dell'imprenditoria italiana, senza fare i nomi, andavano insieme a Klagenfurt. E tu come fai a saperlo? Lo so. Sì, però adesso scusate. Però sì, diciamoci una cosa, diciamo. Bisogna legalizzarli in Italia, no? Sì, assolutamente sì. E ai miei tempi le ragazze non erano disponibili. Tu dici che era gioco forza? Gioco forza? Sì, certo, come ai tempi di mio papà e di mio nonno, gioco forza, certo. Cioè bisognava, che adesso uno debba pagare una ragazza mi sembra una cosa un po' fuori dai tempi. Cioè è giusto punire i clienti? È giusto punire i clienti delle prostitute, secondo te? No, io penso che debbano fare quello che è stato proposto tante volte, un red district da qualche parte in mezzo alle campagne. Bravo, red district, ottimo. Dove gli pare, dove le puttane paghino anche il 7,40. Finalmente qualcosa di civile, dai. Un contributo alle, così. Capito, Lorenzo? Sono molto d'accordo con il professore, perché che la trasparenza di creare delle zone così crea sicurezza per le ragazze che decidono, per i clienti, per tutti. E così finalmente evitiamo, giusto, questi parchi terribili in cui magari è costretto a rincasare un papà con un figlio bambino, gli devi spiegare che quel signore che travestito e poi c'è gente che vuole investire, poi magari c'è gente che vuole investire su queste cose all'estero, c'è gente che fa i soldi, perché impedire a qualcuno che vuole investire nella prostituzione di farlo anche in Italia? Mi sembra una cosa folle. No, naturalmente ci deve essere una precondizione. No alla schiavitù. Vabbè, ma quello. Vabbè, ma quello è scontato. È scontato. Sui viali del nostro. No, ma è scontato. Una volta che. Ma quello è nelle leggi. È proibita la schiavitù. È proibita lo sfruttamento della prostituzione. Oggi c'è la schiavitù, ha ragione, professore. In alcuni casi sì. Non in autostrada, ma basta prendere una provinciale. Ma basta andare qua sotto a via Monterosa. È pieno di zoccole. Via Monterosa è pieno di puttane. Bene, e allora lì la polizia. Ne vorrei portare un paio qua in studio per farmi raccontare le loro storie. E entrano qui a Confindustria nel tempio della finanza italiana. Almeno stanno al caldo, poveretto. Magari trovano qualche cliente, che ne sai. Così, Lei dice pieno di, pieno di, pieno dice. Sicuro. Tra gli, no, no. Tra gli imprenditori, dice lei. No, vabbè, sì. Se, se, se le scegliete un po'. Dove c'è il denaro, dice, dove c'è il denaro. Senta, professor Crepè, ma Toscani ha detto una cosa sui veneti. Lei è veneto, ma è vero questa cosa che c'è il, l'alcol nel DNA? Beh, noi lo teniamo bene il vino, intanto. Però cioè, sì, questo sì. Cioè sono ubriaconi veneti? È un distinto. Ma io quando sono venuto a Roma tantissimi anni fa mi meravigliavo che non ci fossero ubriachi in giro, e invece a me piaceva l'idea che verso mezzanotte sotto i portici c'era il solito che diceva cose abbastanza interessanti. Per cui ha ragione Toscani, i veneti è un alzano il gomito. Sì. Sì, ma questo l'ombra è, per noi è un rito. Cioè a Roma se uno ti versa un bicchiere di vino alle 11:30 di mattina, insomma pensi che sia un pervertito, da noi è un gentiluomo. No, per cui siccome in Veneto molti si sono incazzati su questa cosa qua, cioè quando Toscani ha detto tutti ubriaconi. Ma i veneti secondo me stanno un po' perdendo la loro identità. Cioè? Invece, ma perché bello? Insomma, noi intanto facciamo dell'ottimo. Vabbè, questo d'accordo. Non si capisce, no, non si capisce perché non dobbiamo berlo. Cioè il vino lo si fa per berlo, mica per venderlo. No, però Toscani ha detto un'altra cosa, ha detto che è un popolo sostanzialmente di ubriaconi, cioè è un popolo. Ma no, ma Toscani, ci lavoro da una vita con Oliviero, quindi so che lui esagera perché vuol fare il simpatico. Insomma, poi lui è stato per anni a Treviso a lavorare, quindi sa benissimo che è vero, ma insomma non esageriamo. Che sento, non dire, non siamo ubriaconi, teniamo bene l'alcol, è una cosa. Senta, professor Crepè, ma lei che è un, come dire, un molto critico nei confronti della Lega, ha visto questo nuovo amore del leader leghista con una conduttrice di Rai 1? Ha letto? Non me ne può fregare di meno, però no, per quali sono queste cose. Lui smentisce, tra l'altro. No, siccome ma sì, ma perché deve, non so, si vede che allora non sarà bene, non so, però insomma, no, poi non so, c'è la destra ha delle icone tutte uguali, cioè? Di femmine. Cioè? Ma insomma, no, ricordo così che quelle che erano molto amate, sì. da stereotipate. Cioè, che icona è la signora Isoardi? No, non lo so, adesso io non so neanche, però mi pare così un po' come dire scontata. Cioè, Barbie, scontata, un po' Barbie. Cioè, insomma, cioè bella, non è piatta, diciamo, no? La solita belloccia. Sì, molto molto procace, così, procace. Molto sì, ecco, c'è quest'idea che va benissimo, per carità, non è un difetto. C'è quest'idea che la donna, però, a chi piacciono le donne? Piacciono, no, un po' così, un po' colà, un po' su, un po' giù, no? Se ti piace una cosa, E invece? Se non sei ossessionato dalla donna, se ti piace, ti piacciono le donne, non una donna. E invece alla destra piacciono sempre lo stesso secondo tipo di... Secondo me sì, perché io non ho mai visto, non so, una un tipo, no? Una ragazza, ma sì, non so. Una ragazza normale, dici tu, una ragazza normale. Vabbè, sì, ho capito. Magari è elegante, per esempio. Ecco, quelle eleganti. Quelle eleganti non piacciono. Vabbè, insomma, però non si è andato giù leggero. Fermi tutti, ciao Paolo. Non accetta lezioni da lei. Chiaro? Dobbiamo smetterla! Va bene. Molti di voi hanno indovinato, naturalmente, caro Parenzo, Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, era la voce che avete sentito. Fra poco ricostruiamo questo favoloso scazzo con Matteo Salvini. Devo dire la verità, caro Parenzo, e parlo da un punto di vista di comunicazione, da un punto di vista mediatico, è la prima volta che vedo qualcuno che di fronte a delle tesi di Salvini, cioè bisogna uscire dall'euro, gli artigiani starebbero meglio se uscissimo dall'euro, il caso della Svizzera con la rivalutazione del franco svizzero è emblematico, eccetera eccetera, c'è qualcuno che risponde colpo su colpo, anche in maniera piuttosto forte, al signor Salvini, perché di solito molte cose vengono lasciate passare, nessuno risponde, eccetera eccetera. Invece il signor Napoletano, ma qui non voglio essere come dire, no? No, ma mica perché è il nostro direttore. Ma che me ne frega, noi pigliamo per il culo tutti. Devo dire la verità. Con Napoletano tutta la vita l'abbiamo sempre sostenuto. No, questo lo dici tu tutta la vita. Tutta la vita. No, in questo caso. No, in questo caso io dico semplicemente... In questo caso Napoletano Salvini con Napoletano tutta la vita. Io dico dal punto di vista della comunicazione, ha dato... E dei contenuti anche. Contenuti, tu sei d'accordo? Perché tu vuoi uscire dall'euro, non ho capito. Non lo so. Lì poi ci sono delle grandi scuole, no? Delle grandi scuole. Ti sarai fatto un'idea te, se tu vuoi uscire dall'euro, per carità, io non do niente per io non do niente per scontato nella vita, per cui non so cosa può succedere. Sto dicendo semplicemente che dal punto di vista della comunicazione il signor Napoletano ha risposto, come si dice, ton sur ton, ha risposto in maniera piuttosto vigorosa, forte, decisa a Matteo Salvini. Ma ricostruiamo tutto, da dove inizia questo scazzo pazzesco che c'è stato? Inizia dal fatto che Salvini dice certe cose. Guardi, io ho seguito per un'ora come un telespettatore. Ho sentito il direttore del giornale Confindustria difendere l'euro capovolgendo la realtà, perché il caso svizzero è il classico esempio che una moneta sopravvalutata danneggia l'economia e quindi l'euro è una moneta sbagliata. Mi spiace che il giornale economico per eccellenza prenda in giro i suoi lettori in maniera come questa. Quindi in questa ora mi sono reso conto che forse c'è una politica e un giornalismo che stanno su un pianeta e c'è la gente normale che sta dall'altro. Non l'avesse mai detto, dopo un po' Napoletano toccato sul punto, no? Giusto, come? Giusto, dai. C'è una fuga di depositi. Attenzione. Ma noi non siamo la Grecia. C'è una sola cosa noi vera che ha detto Salvini. E sono pronto a raccogliere. Massacrate dal suo euro. Parlo delle aziende. Allora, c'è l'economia e le imprese come la conosco io non accetta lezioni da lei. Chiaro? Allora, la sola cosa di Salvini... Io so bene qual è il tessuto e le sofferenze del tessuto artigiano, del tessuto commerciale, del tessuto imprenditoriale italiano. Quindi dobbiamo smetterla di dire fesserie. Dobbiamo smetterla. Va bene. Per piacere, cerchiamo di non vendere droga, di non vendere finzione, perché... con la droga e con la finzione non si va da nessuna parte. I famosi artigiani che lei difende e che lei ha ragione di difendere alla mattina si svegliano peggio di prima. Abbia l'onestà di dire che lei rappresenta chi ha migliaia di dipendenti. Ma non ci sono più le grandi industrie in Italia, ma di cosa sta parlando? I commercianti, non sa nemmeno che non ci sono più le grandi industrie in Italia. Scusate, ma così non si capisce niente. Imprese molto innovative. Intanto guardiamo il titolo del giornale in attesa che loro si... Guardiamo il titolo del giornale di domani. Questo sia chiaro, abbia pazienza, c'è un limite a tutto. Eccolo qua. Anche ad ascoltare. Sì? Buonanotte a lei. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Mattarella ha lasciato l'incarico alla Consulta, domani l'insediamento. Nel discorso la necessità di una politica alta ai problemi veri del paese. Renzi, ora possiamo mettere il turbo alle riforme, con o senza Forza Italia possiamo farle da soli, niente verifiche, non perdo tempo con i partitini. Alta tensione nel nuovo centrodestra, Lupi non siamo un tappetino, Alfano non trattengo nessuno, Salvini porte aperte ai delusi di nuovo centrodestra e Forza Italia. Sconto di pena per Berlusconi, 45 giorni in meno ai servizi sociali, ma resta incandidabile per la Severino, domani al Colle per Mattarella. L'offensiva greca sul debito, domani Tsipras a Roma, la Merkel, la Troica non si tocca, Obama più tasse alle multinazionali, aiuti alle famiglie. Gli Stati Uniti ammettono un americano ostaggio dell'ISIS, 26 anni, rapita in Siria 2 anni fa, il sequestro taciuto per proteggerle la vita. Veronica Panarello ha agito da lucidissima assassina, così il tribunale del riesame sulla conferma dell'arresto della donna per l'omicidio del figlio Loris. I'm Allora, i tuoi ex amici di Telenuovo in Veneto mi scrivono: caro Parenzo, ormai siete gli unici a dare voce a un poveretto derelitto che per far parlare di sé spara cazzate sempre più grosse. Si riferisce a Toscani. L'alcol test. Ex amici di Telenuovo? No, no, anzi, ex amici. L'alcol test. Ma ti hanno scritto a te proprio? Sì, sì, l'alcol test. Non solo bisognerebbe farlo a Toscani, per l'elettroencefalogramma non ci sono dubbi, è piatto. Ma chi te l'ha scritto? Non ti preoccupare. Il direttore, Sir Zwirner, no, l'amico Zwirner. Ma che ci frega, ho detto Telenuovo, non stare lì a Telenuovo. A investigare chi mi ha scritto, chi non mi ha scritto. Basta che mi hanno scritto a Telenuovo, punto e basta, dai. Che me ne frega. Oh, Salvini si rifiuta di parlare di vita privata, eh. Vabbè, questa ha ragione. Senti, senti. L'Esordi ha confermato, no, però, ha detto vi frequentate. Le ripeto che non... Le ripeto che della mia vita privata non ne parla, mai parlato. Vabbè, allora si impegnano a farsi. Rispettiamo la nudo. Decisione. Assolutamente no. Andiamo a Napoli, Antonio. Ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. No, niente, so che ne abbiamo parlato già tante volte per la questione Corona. Secondo me deve espiare la pena, non deve rompere i coglioni, perché è adulto e vaccinato, sapeva benissimo a quello che andava incontro. Questo è il mio pensiero. Ma scusi, bravo uomo, mi scusi, bravo uomo, mi scusi, ma non è che rompe, come dice lei, i coglioni, Corona, è in carcere e attraverso i suoi legali sta facendo una battaglia per avere quello che spetta a qualunque detenuto. Quindi non è che Corona rompe, come dice lei, caro il mio Antonio da Napoli, non è che rompe Corona. I suoi legali stanno facendo una battaglia come fanno anche altri ristretti oscuri, capito? Questo è il fatto, non è che Corona... Non sono d'accordo con lei. Ma è un dato di fatto qui, non essere d'accordo con me o contro, amico mio. No, per la non è che io non è che ho detto una cosa in contraddizione con la sua. Ho detto semplicemente che qui non è Corona, è un detenuto, ha degli avvocati difensori, stanno cercando di fargli non ridurre la pena, ma avere dei benefici rispetto al carcere. E questo lo fa qualunque avvocato, qualunque di qualunque non ho capito, detenuto. Antonio, che cosa c'è? Questo specificato. Che cos'è che non le garba, allora, di questa vicenda di Corona? Scusi. Non mi garba il fatto. Lei ricorda che qualche altra mamma di qualche altro detenuto si è andata da Barbara D'Urso in no, ma questo lei, ha ragione, perché ci sono dei detenuti che sono privilegiati dal punto di vista dei media, mediatico, dal punto di vista dell'accesso all'informazione, eccetera, eccetera. Su questo qua non c'è ma dubbio. Non è una colpa quella. No, diciamo. No, non dico che è una colpa, però è una realtà, cioè è una situazione diversa rispetto ad altri detenuti che magari vogliono benefici. Ma anche la Franzoni andava in televisione. Vabbè, ma sto dicendo semplicemente appunto, che è la realtà. Questa è la realtà, quella che dice Antonio. Ad Antonio sta sulle palle che ci siano frotte di VIP che scendono in campo per ridurre la pena, tirare fuori dalla galera, dare benefici di legge, eccetera, eccetera, al signor Corona. E io non posso dare torto al signor Antonio da Napoli, gli devo dare ragione. Ci sono migliaia, se non decine di migliaia di persone nella stessa identica situazione di Corona, senza uno stuolo di gente che lo appoggia e che li appoggia. Anzi, dove andiamo? Andiamo a Fabio, Firenze, vai. Buonasera. Vai Fabio, vai. C'è il funerale della Zanzara. Perché? Non funge più la Zanzara. Perché? Posso capire Parenzo. Ma che cosa? Che cosa? Ma quando Cruciani si mette a difendere il suo direttore. No, no, aspetta Fabio. Una figura ecco il genio. Una figura? Una figura terrificante. No, no, ma perché ha fatto una figura terrificante? Scusa, a parte che, aspetti un attimo, ma Fabio, a me questa cosa mi sta sul cazzo. Lei dice: io difendo il mio direttore, a me non me ne frega niente di difendere nessuno. Dai, io ho fatto. Famiglia, ma non dire stronzate, Fabio, non questa dire stronzate. Questa è una stupidaggine. Allora, ma di che stai parlando? Aspetta, fermo lì. Allora, la situazione è molto semplice. Io non difendo nessuno. Non difendo nessuno. No, non ho bisogno di difendere. Risponde colpo su colpo. Beh, certo, su questo non c'è dubbio. La prima volta che è in televisione, una delle prime volte che è in televisione, ha perso un po' le staffe, non c'è dubbio. Bello, per quello ne parliamo. La prima volta, ne parliamo per quello. Scusa, il buon Parenzo, No, scusami, idiota, scusa un secondo. Io scusami, caro idiota, non abbiamo mai parlato di Napoletano. Gaetano, io ogni tanto ci abbiamo anche scherzato sopra invece, perché a onor del vero io ho sempre sostenuto che le tesi della Lega fossero, aperte virgolette, delle puttanate megagalattiche. Sento Napoletano che ma spiego perché l'ho difeso. Mi ha divertito il modo con cui Napoletano ha difeso la tesi europeista, e l'ho detto, ma non perché sia il direttore di questa emittente, genio della lampada. E infatti per quello ne parliamo, cretino d'un cretino. Guarda che incredibile, sai. Fabio, scusa un attimo, tu però parti dal presupposto che Salvini ha ragione e Napoletano ha torto, io giusto? Sì. No, io sì. Lascia perdere, io Fabio. Io parto. Salvini ha torto. E non funge più neanche se, mi dispiace. Parto da un presupposto. Sì. Allora, segui il ragionamento logico, eh? Sì. Allora, Napoletano, anzi, il vostro direttore ha cominciato a dire: faremo la fine della Svizzera, che si è sganciata dall'euro. Allora, la Svizzera ha rivalutato. Allora, Salvini gli ha detto: guarda, che noi faremo esattamente l'opposto della Svizzera, quindi non facciamo la fine della Svizzera. Ecco, lì ha sbroccato completamente. E allora farete la fine della Grecia. Oh, decidiamoci. O si fa la fine della Svizzera. Vabbè, ma qui ci sono due tesi diverse, però, Fabio. Uno è a favore dell'uscita dall'euro, e l'altro dice che uscendo dall'euro andiamo in rovina. Fermo là, fermo! Mi vuoi ascoltare un attimo, cazzo? Accetta lezioni da lei, chiaro? Parla Verdini. Le dimissioni non sono nel mio DNA. Lei si dimette da coordinatore di Forza Italia, come le chiedono, o si lascia i ruoli nel partito? Le dimissioni non sono nel mio DNA e non vedo le ragioni. Sempre Verdini. Come lotta, dimissioni che mai, nell'angolo. Dimissioni mai. Allora, c'è la tesi particolare del signor Di Battista. Di Battista, esponente 5 Stelle. Ci aspettiamo che Mattarella non firmi l'Italicum. Ma perché? Per quale motivo non dovrebbe firmare l'Italicum? Perché sono persone che vivono in un altro mondo. Adesso il presidente può anche non firmare l'Italicum dicendo che ci sono. Non è un'ipotesi, diciamo. No, perché? Qui. No, assolutamente. Può essere anche, che ne so. No, tutto lui è possibile. Dice: ci aspettiamo che, cioè, quasi fosse un. Una certezza, suo, sì, esatto, che un se suo, lo firma, no, un suo dovere, no, sì, non esatto, una certezza, esatto. In questo senso, se vede che nell'Italicum ci sono dei profili di incostituzionalità, questo, come dire, ovvio, rimanderà la legge alle Camere, come succede, insomma, è successo altre volte, quindi. Ti aspettiamo che si comporti seguendo i doveri che caratterizzano la sua alta carica, e quindi già ci aspettiamo che nelle prossime settimane non firmi l'Italicum, la legge elettorale che ha gli stessi identici vizi di incostituzionalità del Porcellum. Allora, eravamo con Fabio da Firenze, il quale ci dava dei leccaculi, è vero Fabio? Non ho detto questo. Beh, più o meno è così, ditemi dai. Grazie, ditemi grazie. Ma perché cosa gli dobbiamo dire grazie, scusa? Perché sto pregando per voi, è il vostro funerale, quindi io sto pregando. Ma perché il nostro funerale? Perché cosa? Perché cosa? Perché Parenzo andrà per l'inferno, avvolto nelle fiamme dell'inferno. Allora, ti do un'ultima possibilità di redenzione. Dimmi. Devi dire se veramente sei un uomo. Sì, ma parla vicino al microfono. Se no non si capisce. Togli viva voce, dai Fabio, su. Ma sempre le solite cose dobbiamo dire, dai. Allora, ha fatto o non ha fatto Napoletano una figura terrificante? No, guarda, se avesse fatto una figura di merda, una figura di palto, una figura di cacca, poi qui si parte sempre da come uno la pensa, no? Evidentemente tu la pensi in maniera diversa, e dunque ha fatto una figura di merda. Se avesse fatto una figuraccia, una figura di merda, lo direi chiaramente, ma senza problemi, te lo posso assicurare. Più volte abbiamo criticato quello che ha detto Squinzi, quello che ha detto anche qualche volta Napoletano, eccetera. Non ho problemi. Ha affrontato a muso duro, con uno scatto di a un certo punto, perché si era permesso di dire Salvini a Napoletano che non conosceva droga, vendere droga, si sta vendendo droga. Ma no, ma era un esempio, ma sei proprio tu che ci fai discorsi sulla, sul linguaggio, scusa. Vendere droga significa vendere fumo, cioè vendere... Ma che vuol dire? Uno per pungere deve per forza dire che è napoletano è un coglione, scusa, fammi capire, cioè per pungere bisogna dire che è napoletano è un coglione, vabbè, ho capito Fabio, cioè è così. Allora ditemi voi se uno per forza deve dire che è napoletano è un coglione, andiamo a Roma, dai. Cioè per forza devo dire che è napoletano è un coglione, va bene. Dario, Roma. Sì, grazie, buonasera, sono un vostro ammiratore. Vai. E mi associo al precedente Fabio, sì. La penso esattamente come lui. Cioè in che senso? Scusa, spiegami. Non sono un sostenitore di Salvini, però in quella circostanza credo che Salvini abbia espresso con... No, devo dire una cosa, aspetta, adesso mi viene in mente una cosa. C'è certamente nell'atteggiamento e nel tipo di risposta che ha dato il direttore del Sole 24 Ore durante la puntata di Porta a Porta, un, se vogliamo, senso quasi di superiorità, cioè dire, vabbè, questo tu fai, ti credo. Tu fai politica, dici le tue cazzate, dici le tue cose, certo. Io invece so le cose dell'economia, so la ciccia dell'economia. Anche. Vabbè, è vero, però sono due mestieri diversi, sono due cose diverse. No, per scusa, cui, gli ha detto c'è un senso quasi di distanza, no? Non mettere in discussione il fatto che io conosco l'economia, le imprese. Conosco le imprese, tu invece, vendi fumo, vendi droga alle imprese, agli artigiani, all'economia. C'è un senso di superiorità, su questo non c'è dubbio. Esatto. E dunque? Io su questo contesto la vostra ipotesi, insomma, io do... No, non c'è nessuna ipotesi, qui discutiamo, ipotesi. Questo è il punto, non c'è nessuna ipotesi. Non c'è nessuna ipotesi. Facciamo una commissione morale, parlamentare. Scusi, ma lei dove lo trova? No. Scusi, dove lo trova una trasmissione dove io dico che nella risposta di Napoletano a Salvini, diciamo, nell'attacco che adesso, c'è stato, c'è nella, anche un senso di superiorità rispetto al politico rozzo cafone della Lega, questo è il punto. Nella prefazione lei adesso dava a Salvini, diciamo così, è una bacchettata. Ma io non do una bacchettata, io sto dicendo che dal punto di vista della comunicazione, per la prima volta ho assistito in televisione ad uno scontro tra Salvini che dice alcune cose e un'altra persona che gli risponde con i fatti citando due esempi, la Grecia e la Svizzera, diversi. Secondo Napoletano, uscire dall'euro, nel caso della Svizzera si tratta, come dire, di sganciarsi dall'euro, significa sostanzialmente provocare degli sconquassi. Secondo Salvini no, è evidente che per esempio la Grecia non vuole uscire dall'euro nonostante la vittoria di Tsipras. Dunque dal punto di vista, diciamo, dei fatti, qualche ragione Napoletano ce l'aveva. Poi Salvini, secondo lei, ha ragione, dunque tutto quello che ha detto Napoletano è una merda, mi sembra di capire, o no? Sì, diciamo che il punto è questo. È fuori luogo, secondo me. Ecco, Salvini invece esprimeva i suoi concetti anche con una certa pacatezza che non è sua, diciamo così, questa pacatezza. Cioè, lei ha visto, scusi Dario, ti do del tu hai visto da una parte Salvini che ha fatto quasi il moderato e dall'altra direttore del Sole 24 Ore invece un po' sbroccato, questo è il punto. Esatto. Va bene, Davide Milano, vai Davide. Sì, buonasera. Dimmi. Guardi, io sono imbarazzato perché non ho un'enorme simpatia per Salvini, però ahimè devo dire che questa volta Salvini, il contadino, il Gretto, contadino, nessuno l'ha detto. No, il contadino, ragione. Quelle accuse che gli fanno, dai. Ha perfettamente ragione. E ahimè, chi è diciamo miope e chi è ostaggio dell'ideologia europeista. Ma lo vede però che lei parte, tu Davide, parti da un punto di vista però, esatto. Cioè il punto di vista tuo è che l'euro è una merda, esatto. Dobbiamo uscire dall'euro, l'Europa ci ha trascinato, no ma lascia perdere follia o no, ci ha trascinato il nel baratro. Il mio punto di vista è diverso, posso dire che è diverso, sì, che ma è una certo. Follia, chi ma fa questa propaganda facendo, idiota. Stavo così. Sì, ho capito cosa stai facendo. Non è così. E no, spiego perché. Non è così. No, io ogni tanto vengo, io la chiamo sotto uno pseudonimo, ma ogni tanto vengo invitato alla Bocconi a fare lezioni di matematica finanziaria. Sì, sì. Sono sicuro che il ragionamento che ha fatto il vostro direttore, ma non è il solo, sì. Sono tanti europeisti convinti a punto tale da non riconoscere la verità. Cioè la quale? Verità, e la verità gliela spiego in due secondi, senza perderci metà dei suoi ascoltatori. No, dimmi. No, io lo dico brevemente. L'Italia è un paese che funziona secondo un'economia reale, che è regolata da un sistema di prezzi, vuol dire i prezzi delle merci, dei servizi, delle donne, di tutto quello che lei vuole. Però questo sistema dei prezzi è stato tolto dalle mani della sovranità e messo ad un'altra sovranità, che è quella europea. Vabbè, questo è arcinoto. Il sistema di prezzi condiviso, no? Non è arcinoto. Beh, come no? Sì. In passato, il regolamento dell'economia reale, ovvero il riequilibrio tra... Vabbè, avveniva attraverso la svalutazione, eccetera, eccetera. a venire attraverso la svalutazione, ma non c'è questo, lei vede. Vabbè, ma Davide, questo qua è scontato, non è che mi sta stiamo facendo la scoperta dell'acqua calda, c'è l'euro e dunque non gestiamo più nulla dal punto di vista della moneta, diciamo, no? No, ma non solo, è più grave. Siamo prigionieri di questa. Vabbè, ma questa qua è la sua tesi, ma va benissimo. Cioè, io non sto dicendo che lei è una tesi sbagliata, anzi, io in parte la condivido pure. Però che siamo in una prigione da cui non possiamo uscire ed è difficile cambiare alcuni fondamentali dell'economia. Lo dice anche quello che ha detto Salvini, ripeto, che probabilmente non nutre grande passione per la dottrina economica, non conosce i sistemi finanziari. Allora? Però ha detto una cosa giusta, cioè se noi uscissimo dall'euro. Sì, però adesso usciamo. Ma il tema non è questo qui, però scusa. No, ma nessuno si può permettere di dire che avremo una situazione né come la Svizzera né come la Grecia. Premesso che il discorso è molto semplice. C'erano due tesi a confronto. Lasciamo perdere il modo in cui si sono sviluppate le cose. Uno diceva che uscire dall'euro provocherebbe degli sconquassi e citava l'esempio di un paese ricco, la Svizzera, di un paese un po' più povero che la Grecia, e l'altro dice invece che uscire dall'euro è una cosa che sicuramente provoca dei vantaggi. Questo è il punto fondamentale. Per cui lei parteggia per una tesi ed è evidente che vede nell'intervento di Napoletano tutto quello che di negativo che si può vedere. Io vedo nell'intervento di Napoletano un personaggio che, oltre a essere il direttore del vostro giornale. Sì, ma questo non è importante. Ho appena criticato il fatto che ha avuto un punto di vista, diciamo, snobistico nei confronti del rozzo Salvini. Io so tutto e lui non sa un cazzo. È prigioniero anche lui dell'ideologia. Perché se voi. Vabbè, ma dell'ideologia quale? L'ideologia che c'entra l'ideologia? A confronto. No, ma scusi, ma l'ideologia europeista. Il punto fondamentale è che Napoletano, conoscendo l'economia reale, gli artigiani, eccetera, sostiene una cosa: che uscire dall'euro, secondo quello che riferiscono molti artigiani, sarebbe un disastro. Secondo Salvini invece è il contrario, punto. Cioè, ma lei provi ad invitare alla sua trasmissione così d'amblè, sì. Provi ad invitare un Paolo Savona. Uno stesso genere. Sì, ma guardi che ogni mattina ci sono dei professori che intervengono durante la trasmissione di Minoli che sono anti-europeisti. Non è vero, intervengono tutti qua. Guardi, intervengono pure persone contro l'euro a spada tratta. Intervengono, certo. Tutti in questa radio. Borghi, quante volte tutti. È venuto Borghi mio, qui? Su. Amico mio, se io voglio dimostrare una tesi, lei è troppo perspicace per non capirlo. Se io voglio dimostrare una tesi, cosa c'è di meglio di invitare un amico debole? Cioè, se io voglio dimostrare. Beh, ma che c'entra? Scusi, che c'entra? Di tutti i mali. Io farò intervenire. Ma ti ho detto, Davide, che qui intervengono tutti, soprattutto in questa trasmissione. Interviene gente pazza che sostiene che bisogna uscire domani mattina dall'euro e chi ha messo l'euro sono dei criminali che vanno accusati e portati al tribunale internazionale. Di che sta parlando? Ma chi dice questo? Chiaramente è una posizione esasperante. Vabbè, ma lascia perdere. Questo si dice in questa trasmissione ogni tanto, secondo alcuni interventi. Davide, dai, su. Ma adesso chiudiamo questa discussione. Cruciani. Vai, dimmi. Allora, non vorrei essere complottista, ma il fatto che sia stato eletto Mattarella e subito dopo Berlusconi è stato, tra virgolette, prosciolto, gli è stato revocato lì da dare da Dalmassi, fa abbastanza pensare, tutto sommato. No, non credo che ci siano. Qualcuno ha visto nella l'elezione di Mattarella i 45 giorni di sconto a Berlusconi, altro? Fino a due giorni fa erano. Ho capito, ma non è che i giudici vedono l'elezione di Mattarella, che non mi pare proprio uno berlusconiano, anzi Berlusconi è anche abbastanza incazzato, e dopodiché gli danno 45 giorni di sconto, è una follia. Faceva parte tutto del patto del Nazareno, probabilmente. Ma cosa? Ma di che stiamo parlando? Allora è tutta una finta l'incazzatura di Berlusconi? Sì, secondo me è abbastanza teatrale, lo è sempre stato. Cioè, 45 giorni di grazia a Silvio sono, come dire, uno dei frutti del patto del Nazareno. Dunque l'incazzatura di Berlusconi per Mattarella è tutta finta. Anzi, l'elezione di Mattarella porta i 45 giorni di grazia a Silvio. Adesso, francamente, mi sembra una follia. Dai, su. Cioè. Lei, scusi. Però a pensare male ci si prende spesso volentieri. Dice, lei ha anche il dossier Moro in mano? Qualche novità su Aldo Moro? No, io se vuole ho le scarpe, però di più non vado. No, pensavo avesse delle novità su Aldo Moro anche. No. Perfetto. Sulla Rosa dei Venti? No, guardi, ripeto, io sul rapimento di Sossi? Se vuole le faccio le scarpe, se vuole le faccio. Su Gladio, ha delle novità anche su Gladio, magari lei, no? No, chiedo, per carità. Può essere un pensiero o non può essere un pensiero? Ma no, ma certo, ma sì, che può essere, può essere un pensiero, perché lo devi pigliare per il culo? È un pensiero, ha legato l'elezione di Mattarella. Non può prendere per il culo perché se lo fa se stesso, non è che voglio dire. Ha legato l'elezione di Mattarella allo sconto per Berlusconi, che poi insomma, sì, 45 giorni. Ma, adesso, no, ragazzi. Ma non è stata la questione dei 45 giorni, la questione è la tempistica. Fino a una settimana fa hanno detto che Berlusconi non avrebbe avuto niente. Caso strano, è stato eletto Mattarella l'altro giorno, tuffa automaticamente un giudice. Sì, però Berlusconi, qual è il nesso? Dire, non ha nessun vantaggio da questo punto di vista, cioè finisce l'8 marzo di scontare, esatto, la sua pena, ma sì, resta ineleggibile, non si può candidare, c'è la legge, certo, Severino, nessuno può cambiare, se non siamo... ma io non sto dicendo semplicemente che è abbastanza, le tempistiche fanno abbastanza comunque pensare. Ragazzi, la battuta del giorno è di Maurizio Lupi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sai cosa ha detto Parenzo? Che noi dell'NCD non siamo attaccati alle poltrone. Capito? È la battuta del giorno. È la battuta del giorno. Scusami. Allora, Vittorio? Eccomi. Ciao, come stai? Buonasera a tutti, bene, grazie. Allora, Parenzo, tu ci hai creduto per un po', no? Beh, insomma, ci abbiamo sperato. No, tutti sperato. Di vedere. Allora, facciamo una simulazione: Vittorio Feltri al Quirinale, no? Mettiamo che Berlusconi si convinceva. Via quei corazzieri maschi, solo donne. Beh. Intanto, corazzieri donne, solo corazzieri donne. Ma che ne sai? Tanti gatti. Cavalli, gatti e un Quirinale aperto, un Quirinale con un presidente che interviene col suo spirito come fosse un editoriale continuo, bellissimo. Ma vabbè, Vittorio, tu non l'hai presa per scherzare questa roba qua, però, eh? Come mai? Come no? Ti ho visto quando Salvini mi ha telefonato chiedendo se fosse stato disponibile a una cosa del genere, certo che l'ho presa con grande divertimento e fino alla fine mi sono divertito. Ma ti ha chiamato Salvini? Naturalmente nel rispetto delle persone che mi avevano dato un attestato di simpatia e di stima. Questo è chiaro, cioè non è che potevi dire andate tutti a quel paese, non mi rompete il ballo, oppure altrimenti dicevi guarda, no, non mi candidate. Esattamente questo. Ma perché hai accettato? Cioè, ti ha chiamato Salvini, no? Sì. Una cosa che si sapeva. O la Isoardi? No, la Isoardi. No, Salvini, ero in treno. No, la Isoardi. Già aveva detto qualcosa. Sì, nei giorni scorsi. Più precedenti. Volte. E naturalmente la cosa mi aveva fatto piacere. A chi non farebbe piacere essere, diciamo così, ricordato per ricoprire sia pure in modo platonico ti ha fatto ruolo piacere di candidato, mi ha fatto piacere, non l'ho mai negato, dopodiché non cioè, mi sono neanche mai illuso che potesse succedere una cosa simile, anche perché parliamoci chiaro, io probabilmente non sarei all'altezza di imparare in due giorni. Sì, quello sì, dai. Beh, Vittorio, sì, dai, va bene, no, ci vuole un minimo di pratica. Io la politica l'ho sempre vissuta ai margini come cronista, l'ho raccontata, l'ho commentata, però un conto è invece diventare un uomo delle istituzioni, lì bisogna avere anche una mentalità, credo, sì, che forse non ho tutto qua, non è che sto diminuendomi, anzi, cioè tu dici tanto. non sono l'uomo delle leggi, cioè di stare lì a spulciare, sei più istintivo, no, diciamo, no? Sì, e poi credo che sia anche alla fine una rottura di noiosa come no, cioè, no, io, una cosa però mi sarebbe piaciuto farla, cioè diventare socio di Caprotti trasformare il Quirinale, che ci costa moltissimo, come tutti sanno, il quadruplo rispetto a Buckingham Palace, eccetera, in un bellissimo centro commerciale, finalmente il Quirinale sarebbe stato utile agli italiani. Beh, non è una proposta proprio da poco. Centro commerciale, scusa, Esselunga al Quirinale, bellissima, una scritta bellissimo. Sopra Esselunga. Ma come si fa con c'è gli arazzi dentro? Allora, il punto fondamentale è questo. Allora, tu dici, siccome in realtà, ed è vero, tutti quegli spazi alla fine sono sprecati, perché diciamo basta un quadrilocale, io credo. Basta un quadrilocale, sì, per il Presidente della Repubblica, non dico un quadrilocale, però magari fai 200 metri. Facciamo 200 metri, sì. Tutto il resto, beh, a questo punto rendiamolo utile alla collettività. Cioè, rendiamolo utile alla collettività. e facciamoci una... I corazzieri li mettevi alla cassa, così le massaie non avevano neanche la tentazione di rubare. Di rubare, esatto. I corazzieri a guardia di Esselunga, a guardia di Esselunga. No, questa è molto bella. Senti, ovviamente poi dentro quei 400 metri un po' di gatti li mettevamo, o no? Beh, ma quelli senz'altro. Mi risulta che anche Mattarella abbia tre gatti e li porterà di sicuro al Quirinale, a me lo auguro. Ed è una cosa che ti ha fatto piacere sapere che ha quattro gatti. Te lo ha rivalutato? Ho fatto un tweet dicendo un presidente, un uomo che ama tanto i gatti non può essere un cattivo presidente. Ecco, questo così è un'impressione mia. Senti, Luciani detesta i gatti, lo sapevi? No, io no, direttore? i gatti no. In generale non amo gli animali, nel senso che non sono... No, a me piacciono i cani. Non è un animalista scatenato. Non sono un animalista. Ma i gatti li ama, e anche precisato che a Palermo ha dei persiani, per esempio. No, Mattarella. Senti, no, a me piacciono molto i cani. I gatti mi stanno sulle balle invece in modo incredibile. Vabbè, ma lì c'è una simpatia di genere, posso capirlo. No, ma posso dirti? Posso dire, perché questo forse poco è più interessante. No, ma lo sai questo che, della... aspetta un attimo. I gatti, sai perché mi stanno proprio sui coglioni? Perché ti stanno sulle palle, dimmi. Ma no, guarda, se c'è proprio i cani li adoro, ti fa incazzare un po' di gattari, I gatti mi stanno proprio sulle... Perché sono là che si fanno i fattacci loro tutto il giorno. Beh, sono dei parassiti, come gli uomini, veri. Fantastici. Poi vengono come là, te, mangiano. Come te. Come tutti noi. Come vengono tutti là, poi mangiano, infidi, gli dai da mangiare e poi se come ne vanno via. Ma sono incredibile. Ma ha ragione Vittorio, hanno quel sano egoismo che hanno gli esseri umani. Ma ci stanno sulle palle, sì, ti stanno sulle palle, sì, perché sono simili a te, simili a noi, cioè pensano solo a se stessi. È uscito da poco un bellissimo forse libro questo, che fa l'elogio dell'egoismo, nell'egoismo in economia, nell'egoismo nella società, l'elogio dell'egoismo. Mi stanno sulle balle, però voglio leggere alcuni passaggi. Scusa, anche Gesù Cristo ha detto che bisogna amare il prossimo come se stessi, non più di se stessi. Cioè, dice, la fotografia dell'egoismo, dici tu. Proprio Gesù Cristo, no, dire. È una frase che dovrebbe far riflettere: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. Questo è vero. Allora, pubblicità, torniamo tra un attimo con Vittorio Feltri, che ci deve dire ancora qualcosa su questa corsa al Quirinale. Ha perso, ma era previsto. A tra poco. Allora, voglio chiedere a Vittorio Feltri cosa provava quando dalla bocca della Boldrini usciva la parola Feltri, Vittorio Feltri. Cioè, se provava un minimo, nella sua glacialità, un minimo di emozione, eccitazione, oppure non ha nemmeno seguito. Vittorio? No, io mi immedesimavo nella signora Boldrini e immaginavo lo sforzo che doveva fare per non tradire neanche quel minimo di stizza che probabilmente provava. Cioè, tu dici, le faceva schifo pronunciare il nome di Feltri, no? Abbastanza, però dissimulava abbastanza bene. Dissimulava bene. Pensa che dentro cosa doveva pensare Feltri? Sa questi stronzi che hanno votato mamma per Feltri. Mia, Feltri, come si Quirinale, fa a votare mia. Feltri, no? E avrà trasferito tutta la sua eventuale ira su Salvini e Giorgia Meloni, immagino. Sì, sì, vero. Però, scusami Vittorio, tu immagina la scena, no? Feltri, Presidente della Repubblica e Presidente della Camera Boldrini, ma quanto la facevi impazzire? Cioè, quanto la facevi diventare matta? No, poi mi sarebbe piaciuto convocarla ogni tre giorni al Quirinale nel tentativo di convincerla a votare Salvini la prossima volta. Vabbè, senti, però c'è una cosa che ti devo dire. Sallusti ha detto che non avresti accettato perché guadagni troppo, e lì si guadagna invece al Quirinale troppo poco. Cioè, non ci è andato giù leggero il direttore del giornale. No, ha fatto bene, perché in effetti è un ostacolo quello del reddito. E se il Quirinale costa una infinità di milioni, lo stipendio invece del capo di tutta la faccenda ha un reddito sproporzionato anche rispetto a quello che so io di altre cariche dello Stato. Sì. Però, tremendamente però... ingiusto, specialmente se considero le mie esigenze, tra le quali ci sono quelle del superfluo. E dunque, scusami, direttore, vuoi mettere l'onore superfluo di stare lì l'onore di essere lì. Ma chi se ne frega? No. Per avere quell'onore là, uno deve rinunciare magari a centinaia di migliaia. No, c'è da dire che sarei stato spesato di tutto punto, quello avrei dovuto considerarlo. Però, insomma, indubbiamente 250.000 euro lordi non sono una paga adeguata. Non dico al Presidente della Repubblica, ma per me non sono sufficienti. Ma come non sono sufficienti? Però, 250.000 però euro. Sallusti l'ha detto in un modo... No, spiritoso, perché l'ha detto a un giorno da pecora, dagli amici che un è un programma pecora, sì. Nel quale come qui alla Zanzara si può anche ridere, scherzare, dire delle battute. Però l'ha detto come per far conoscere all'esterno una cosa, cioè Sallusti e Feltri guadagna tanti soldi, diciamo. No, ha anche aggiunto guadagna più di me, il che devo dire che mi fa anche piacere. Tu dici, il giorno in cui guadagnerò meno di Sallusti, è meglio che me ne vada a casa, giusto? O no? Questa è un'interpretazione estensiva. Un'interpretazione ma veritiera. Senti, ci sono delle voci di passaggi di Santanchè, della Santanchè alla Lega, possibile? No, questa non l'ho mai sentita, la sento adesso. Ma farebbe bene, secondo te? Ma non lo so. Sì, lei farebbe bene, solo che bisognerà valutare. Cioè, fosse Salvini la piglieresti oppure no? Se fossi Salvini, no, non sono in grado di dare una risposta davanti a un'eventualità che mi sembra improbabile. Oggi ci sono un evento clamoroso, questo qua. Oggi ho letto da qualche parte che ci sono voci. È un evento clamoroso proprio questo. Perché è clamoroso? La Santanchè passa alla Lega. Perché cazzo, no? C'è l'assedio. Fermate tutto, c'è un assedio sotto la radio, eh? Ci sono centinaia di persone che vogliono sapere tutto della Santanchè della Lega. Ma no, ma scusa. Hanno bloccato la radio qua sotto. No, te lo dico. Ma dai, Davide, non fare intelligente. Sarebbe politicamente una notizia interessante. Ma sì, in continuità con quel che dice la Santanchè. Assolutamente. Intanto oggi è una giornata positiva per Berlusconi. Molti l'hanno legata al Quirinale, secondo me non c'entra nulla. Cioè la riduzione della pena di 45 giorni. Sì, sono d'accordo con te. Sì. Non c'entra niente con Quirinale, no, diciamo. Credo che non c'entri niente, anche perché la decisione spetta alla magistratura. Appunto. Noi non possiamo sempre pensare che la magistratura agisca in base ai desideri del palazzo. Io a questo non ci credo. Ci sarà qualche giudice, ma dico. Ma Berlusconi, secondo te, che vuole alla fine? Vuole riabilitare se stesso, trovare qualcuno certo, che vuole. L'unico obiettivo finale, è quello. Un finale in bellezza, insomma, ma questo è umanamente comprensibile. Un finale degno, un finale degno. Sì, ma hanno ragione quelli che dicono che per questo finale degno sta distruggendo un partito, sta tradendo gli elettori, insomma i sondaggi sono impietosi. Sì, però il partito era già in forti difficoltà, quindi non credo che Berlusconi lo abbia ulteriormente danneggiato. Qui cerca di trarre anche qualche vantaggio per sé e persino per il partito, perché altrimenti a questo punto non conterebbe più niente neanche il partito, che ne dicano molti suoi accoliti. Comunque tu resti dell'idea che il fatto che ti abbiano proposto come Presidente della Repubblica significa che siamo alla frutta, una volta l'hai detto? Beh, una battuta, io credo che sia consentito scherzare almeno su se stessi senza essere querelati. No, ma infatti devo dire che il fatto che poi non hai parlato in quei giorni perché avresti potuto prendere per il culo tutti e tutte da un certo punto di vista è quasi positivo. Un'ultima cosa, c'è oggi una cosa interessante, Parenzo, che riguarda il testamento di Margherita Hack. Sì. Allora, dico una cosa, Margherita Hack ha fatto un testamento, poi il marito lo ha corretto, alcuni dicono che lo ha corretto in maniera sbagliata, poi vedremo, aveva lasciato una parte dei suoi soldi, qualche decina di migliaia di euro, a delle associazioni per i cani e per i gatti. Ora io voglio dire una cosa forte: meglio la badante, perché tutto è finito nelle mani della badante, meglio la badante degli animali. Cioè, meglio che quei soldi vadano tutti alla badante che ne ha bisogno, piuttosto che alle associazioni animaliste. Sono sicuro che Vittorio non la pensa come me, però. Ma io però devo fare una piccola premessa: se il marito ha corretto il testamento della moglie ha commesso una scorrettezza, poi se entriamo nel merito si può discutere. Ma tu lasceresti qualcosa agli animali? Se io posso lasciare una cosa agli animali, non alle organizzazioni che magari sfruttano gli animali. Che se ne fanno gli animali, però, scusami? Beh, gli animali, se c'è qualcuno che sa gestire bene una struttura che può aiutare gli animali, a me fa solamente piacere, perché non è che io sono un maniaco, ma ritengo giusto dare dignità anche agli animali, quella che si meritano, senza tante smancerie. Però perché far soffrire delle bestie quando se ne può fare a meno? Meglio lasciare tutto agli uomini, agli esseri viventi, piuttosto Ma questo è un concetto molto nobile che è espresso esprimerlo merita sempre un applauso. Io che non cerco l'applauso dico che bisogna aiutare anche gli animali e a seconda delle proprie sostanze, naturalmente. Ciao Vittorio, ciao. Buona ciao. Serata. Ciao. Allora, Edoardo Asti. Ciao. Io volevo dire che Salvini basa le sue proposte politiche su eventi riscatti, compresa dalle... Sì, non si sente bene però, Edoardo, alza un po' la voce, avvicina il microfono a dove diavolo sei. Fai quello che devi fare. Salvini basa le sue proposte su eventi che non si verificheranno mai, perché non si uscirà mai dall'euro. E proprio per questo lui potrà sempre dire usciamo dall'euro, ma se uscissimo veramente dall'euro il primo a aver paura sarebbe lui, anche perché è vero che svaluteremmo e potremmo avere più esportazioni, ma pagheremo ben più importazioni. Quindi lui diciamo che si comporta un po' come il Papa se venisse giù Dio non esisterebbe più la religione cattolica, ma avrebbe più senso. Beh, adesso il paragone mi sembra un po' improprio, però tu dici va bene, insomma, che uscire dall'euro sarebbe un disastro e dunque tutte le tesi di Salvini sono sbagliate. Ma non accadrà mai, non si potrà mai, e quindi e dunque da questo punto di vista spaccia droga, quello che ha detto Napoletano spaccia droga, secondo te è corretto? Certo, ma perché il federalismo, quando poi sono riusciti a farlo i leghisti hanno avuto un contraccolpo enorme, sono finiti al 2% quando sono... No, veramente non sono riusciti a fare il federalismo, non è che siano riusciti a farlo, insomma. Anzi. O comunque è stato fatto male il federalismo in Italia, insomma. Non hanno contribuito male, solo loro, ma non è stato fatto benissimo. Va bene, Edoardo, grazie. Marino da Roma, Marino, vai. Buonasera. Dimmi caro, dimmi. Scusi, fermo la macchina un attimo, sono faccio un incidente. Niente, a me devo dire la verità, mi fa un po' ridere uno scambio di conversazioni che si vede in televisione. Perché? In particolare Salvini, che praticamente se i politici fossero un po' più attenti lo sburgerebbero loro, cioè praticamente di martedì da Floris lui ha detto che i soldi alla Grecia l'aveva prestati Monti, Renzi, invece il fondo salva stati l'aveva fatto Berlusconi con la Lega, praticamente è stato sbugiardato. Però lì quando si è presentato con sto foglio a dire 100.000 immigrati che sono dispersi, nessuno sa. Però 100.000 non ha mai detto in quanto tempo, in quanti anni, cioè praticamente da quando c'era lui al governo. No, ma infatti allora lui parla al popolo ignorante. No, ma io infatti che cosa ho fatto? Cosa ho fatto prima? Cosa ho detto prima? Ho detto che per la prima volta in televisione, attirandomi le critiche di qualche ascoltatore che dice tu vuoi difendere il tuo direttore, eccetera, io ho detto semplicemente che per la prima volta, senza nemmeno entrare nel merito della discussione, che è una cosa troppo lunga e soprattutto che non facciamo mai qui, e su cui ha risposto anche un ascoltatore di prima, ho detto che per la prima volta in televisione si è assistito a un Salvini che diceva le sue cose sull'euro, eccetera, ed una persona in particolare, che in questo caso è anche il direttore di questa radio, che gli ha risposto per le rime e anche se vogliamo con lo stile di Salvini in alcuni momenti, certo con dei fatti, ma con lo stile di Salvini, cioè con uno stile veemente, forte, che di solito Salvini usa in televisione, tra l'altro con un'inversione quasi di ruoli, ci ha fatto notare prima l'ascoltatore, no? Lo diceva pure Parenzo, cioè il leghista da un certo punto di vista, per quello che riguarda lo stile e la comunicazione, sembrava il direttore del Sole 24 Ore e non il leader della Lega. Vabbè, ma queste sono questioni di comunicazione e di stile. Marino? Posso dire una cosa? Dimmi. E poi chiudo, mi taccio, riprendo la guida. Voglio dire che praticamente Salvini è chiaro che si rivolge a una popolazione ignorante che non sa le cose. Ma questo non è la popolazione ignorante, non è vero. Non è, si rivolge al suo elettorato cercando di prendere l'altro elettorato, ma sono due mestieri diversi, uno fa il politico e l'altro fa il giornalista. Ecco, però noi in Italia con la cultura, con il livello di cultura che c'è adesso non possiamo più avere dei politici. No, ma quello che mi meraviglio è che nessun politico gli ha risposto alle cavolate che diceva. Gli rispondono storici e giornalisti informati. Allora a me quello che dispiace è che non so se dice cane non morde cane, io non ti rispondo su quello, sì, tu fai il tuo lavoro di politico, faccio il mio. Cioè è strano che poi a dire la verità ci devono essere i giornalisti scendendo al livello di Salvini, oppure lo storico che c'era lì. No, a livello di Salvini. Io sono sicuro di una cosa. Il politico gli ha detto scusa, ma in quanti anni 100.000 emigrati sono stati dispersi? Persino Alfano non gliel'ha saputo dire. E così da Floris, i politici che c'è, nessuno gli ha detto niente. Va bene, dai, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Fermi, torniamo tra un attimo. Ciao Marino, ciao. I'm in love, I'm in down, take my word, my way around. francesimo. Allora, Roberto Trani, vai Roberto. Ciao, buonasera. E io volevo solo affermare che Salvini c'è delle corbellerie uniche. Su cosa? L'euro, sull'euro. L'euro ha dato stabilità. Se noi ricordiamo, ai tempi della lira avevamo il 17% sugli interessi generali. E tra l'altro il problema è nella mancata controllo del passaggio lira-euro. Noi siamo pagati oggi in euro, ma equivalenti alla lira. Sì. Però oggi lei un litro di latte da 1000 lire lo paga 3000 lire, perché gli danno champagne alle vacche. Il problema è quello, c'è stata una grande speculazione sul passaggio lira-euro. Sì, c'è però Roberto, questa non è la sede, non è la sede per riaprire. Ma il problema è quello. Sì. E può essere, non essere la sede, è quello. Ma non è... Oggi l'Italia è più povera perché ha avuto un 60% di aumento di costi il cittadino. È più povera per tanti motivi, ma comunque non ma è no, qui. Ma soprattutto perché non può spendere. Perché lei il mercato interno non riesce a innalzarlo, perché lei c'ha il 60% di costi in più. Chi guadagnava 2 milioni stava bene, con 1000 lire, con 1000 euro. Roberto, però qui non è la sede per riaprire la grande discussione sull'euro. Si è partiti da una vicenda che è quella di una discussione mediatica che c'è stata. Ma ha fatto bene incazzarsi. Napolitano, Napolitano, ma il problema è che oggi il problema è che lei paga i pomodori che si pagavano 2000 lire, li paga 4 euro. Vabbè, però Roberto, la discussione che volevo fare poi la chiudiamo è un'altra. Io dico una cosa molto semplice, che se il direttore del Sole 24 Ore, nonché il direttore di questa radio, non avesse risposto in quel modo, che è diverso dal modo in cui di solito un giornalista risponde a Salvini, e in particolare Napoletano diciamo risponde a Salvini, anche se non credo che ci sia stato mai un confronto, se non avesse risposto in quel modo a tratti veemente, anche se supportato ovviamente dai fatti, secondo me lo avremmo notato di meno e probabilmente le cose di Salvini sarebbero passate inosservate. E invece al contrario, e Parenzo su questo mi dai ragione, rispondendo in quel modo a tratti veemente, anche dicendo quella frase che abbiamo riportato per scherzare all'inizio, è passato con più forza mediaticamente il messaggio che voleva dare, cioè dire il fatto che Salvini stava dicendo delle puttanate sull'euro, sulla Svizzera e sulla Grecia. Ma lo dice da 10 anni la Lega, queste stupidaggini qui. L'euro, sì, però voglio dire, in generale, la posizione di uscita dall'euro, io adesso entrando nel merito, se uno sostiene il fatto che si può uscire dall'euro, non è che dice, ci sono tanti professori che lo sostengono, va benissimo. Uno può anche sostenere che è bello andare a 200 all'origità, ma non è questa una gran stronzata, che vuol dire? No, sto dicendo che sono due mestieri diversi. Il problema bisogna capire perché nel momento in cui c'è stato qualcuno a cominciare dall'industriosa Nord Italia, nessuno ha controllato, perché l'euro ha sprafonato totalmente rispetto al rapporto e ha impoverito l'Italia. Noi oggi parliamo di problematiche economiche interne del paese. Sì, ma nel merito, nell'euro. Ma ci sarà un motivo se la maggioranza degli imprenditori italiani, per non dire tutti, vogliono rimanere nell'euro? Adesso, al di là delle fregnacce dette da Salvini, dalla Lega, dalla Le Pen, ci sarà un motivo, non per Napoletano, che è il direttore di questo giornale, ma se gli imprenditori italiani ti dicono che non vogliono uscire dall'euro, ci sarà un motivo, no? Loro sono mica comunisti. Uno potrebbe anche ribattere. Ma per dirti, se vogliamo ragionare, Tanti si sono sbagliati su alcune cose. Ho capito, ma questi qua hanno le mani della fabbrica ogni giorno, sono lì ogni giorno nei mercati, non è che sono lì a pontificare. Quindi scusami, l'euro è stabilità. Quindi il direttore del quotidiano più importante degli imprenditori italiani, il fatto che sostenga questa tesi, a torto o a ragione, rispecchia anche il mondo che rappresenta, no? Dove, non essendo tutti comunisti, ma anzi gente che ogni giorno va in una fabbrica, fabbrichetta o fabbricona, sa come gira il mondo e non è che te lo fa spiegare dal leghista di turno. Giovanni, questo è il motivo. Parliamo di sesso, sennò mi sono rotto i coglioni qua, dai. Giovanni, dai. Allora, io volevo intervenire perché prima parlavate un po' di quello che fanno i nostri politici per non dare delle zone franche a chi comunque vuole andare a prostitute. Io volevo soltanto segnalare che qualche anno fa è stato aperto, vicino al nuovo stadio di Bari, il San Nicola, in una zona comunque servita perché ci sono raccordi stradali, comunque una zona ben controllabile, era nato un parco dell'amore, non era altro che un parcheggio con un guardiano, con le videocamere, dove chi voleva appartarsi, e parliamo dei ragazzi, dei giovani, insomma, che vogliono stare nella loro intimità, c'erano dei box che separavano una macchina dall'altra. Era qualcosa di illegale, cioè non era qualcosa di legale. No, era nato perché era un'idea di un imprenditore. Io sinceramente non so il nome di questa persona. Sì, però ma non è che non si può fare. Non si può fare, però. Cioè, E questo poi è nata dopo l'esigenza da parte delle forze dell'ordine. Però in realtà cosa succedeva? Che un imprenditore ha pensato di tutelare comunque coloro che si volessero appartare, perché comunque le rapine alle coppiette sono state una piaga, ma lo sono tuttora, con un posto dove c'era il distributore di preservativi, dove c'erano i fazzolettini sempre con un self-service, e non per un motivo sicuramente di ordine pubblico, però un'iniziativa che poteva essere la capostipite di tante iniziative atte a preservare la sicurezza dei giovani che, non avendo una casa, si vogliono appartare, o chi comunque vuole esercitare la propria professione, parlo di uomini o di donne, e hanno dei posti dove sono tutelati e dove vengono tutelati, ed eventualmente pagare le tasse, eventualmente. Giovanni, a me lo dice, con me sfonda una porta aperta da questo punto di vista. Però è chiaro che se uno lo fa illegalmente, tra virgolette, se uno lo fa senza il consenso, senza che le leggi lo possano consentire, prima o poi qualcuno chiude, non c'è dubbio. Io lascerei fare lo stesso. Bisogna pur cominciare. Cioè qualcuno deve pur cominciare. Ho capito, non è che poi fatto. Sì, non è che poi. Allora, benissimo. Allora andate a votare quando ci sarà il referendum sulla cancellazione della legge Merlin che toglie, che sopprime le case chiuse. La legge Merlin, No, siccome adesso c'è un referendum che io ho firmato, per esempio, che si voterà probabilmente su questo referendum sull'eliminazione della legge Merlin che ha tolto le case chiuse, andate a votare, vediamo quante persone andranno a votare, vediamo se il tema interessa agli italiani. Gigi, provincia di Milano. Oh Beppe, ciao, sono Gigi, Chiaro. Ascoltami Beppe, io ti adoro, però a volte le fai girare che più non posso. Allora, prima cosa, intanto voglio rispondere andando un po' fuori tema, alla prima cosa che farà Mattarella. Ascolta Beppe, faccio le domande, poi chiudo e ti ascolto per radio, perché faccio fatica. Dimmi, dai, forza Gigi. Allora, la prima cosa che voglio dirti è che Mattarella, sono sicuro, la prima cosa che farà darà la grazia al nano, sono sicuro. Sicuro che sarà quella la prima. Ma chi te l'ha detto? No, poi me lo dici, poi basta vedere quello che ha fatto oggi. Vabbè, dai. Poi la seconda cosa che mi fa girare davvero le madonne, Giuseppe, scusami. Che cos'è? Da stamattina Milan è esordito, perché vi ascolto tutto il giorno, io non mi perdo un'ora. C'è niente da fare tutto il giorno, perfetto. Comunque Milan, la battuta di stamattina di Milan è stato che il 5 Stelle, come al solito, si chiama fuori. Perché? Perché presenta dei candidati assurdi. Ha proposto Impositano. Impositano. Hai ragione, quello è Positano. Mentre invece Salvini, che ha proposto Fenster, è un eroe, no? Poi l'altra cosa che mi fa girare ancora le madonne è che tu adesso. Boh, non lo so perché sei arrabbiato. Perché è così concitato? Giuseppe, ma perché ascoltami? Tu hai in mano uno strumento che io sono sicuro che fa milioni di ascolti la sera. Perché io è da 6 mesi che ti ascolto e non perdo una serata. Gigi, ma che vuoi? Non ho capito. Allora? No, ascolti, sto dicendo, cazzo, ma morire se parli, dici una cosa positiva dei 5 Stelle. Ma io ne ho dette un sacco di cose positive dei 5 Stelle, ma se poi uno, come dire, inanella una serie di secondo me, di errori politici clamorosi, come la gestione della vicenda del Quirinale, in cui sono stati totalmente marginati, mica è colpa mia. Cioè, se loro proponevano qualcuno, se entravano nel gioco delle trattative, così si elegge il Presidente della Repubblica, si elegge col web, con una persona magari stimata come Imposimato, che certo delle idee un po' bizzarre sui complotti eccetera, perché è totalmente irrilevante in questo caso. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu. Gelato al cioccolato, Cristiano! Cristiano! Cristiano! Cristiano! Come stai? Come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Lo so, caro Cristiano. Guarda, io da una vita sono qua ieri sera, poi arrivi tardi. Aspetta. Lo so, arrivo tardi. Ieri sai perché? Perché si è fidanzato. No, si è fidanzato, caro Cristiano. Amore mio, con questa sciarpa di un sexy pazzesco. Ieri sera eri bellissimo. Non avevo scusami, Cristiano mio, amore mio, grazie, scusami, Cristiano, ti dico. Il signor Cruciani si è ufficialmente, così apprendo dimmi, dai social network, si è ufficialmente fidanzato con una simpatica signorina di Udine. Scusami, io sono un signorino. Che pare sia più giovane di lui di 20 anni almeno. Di 20 anni almeno. Di 20 anni almeno. Ha ragione, Cristiano. Così hanno scritto i giornali oggi. Hanno scritto i giornali, i social network. Che giornali, ma c'ho qui l'articolo davanti. Ma solite... c'ho beata qui davanti donna, i tuoi amici di Libero, Libero amore, Quotidiano. Fai Libero parlare un attimo, Cristiano. Scusa, dicevi? No, no, dico beata questa bellissima signorina. Beh, ormai maschi in giro non ce ne sono più. Cruciano appartiene a quella categoria di maschi che non si devono, come si dice, che devono estinguere, devono essere sempre proprio pronti a tutto. Anche bravo, grazie. Anche le mie, come dire, le mie provocazioni. Guarda, Cristiano, io è perché ancora non ho attraversato, come dire, il guado e non sono diventato a voile e a vapeur, come si dice in francese, cioè a vela e a vapore. Altrimenti avremmo già fatto un sacco di sesso, guarda, se io fossi anche... perché qual è il problema? Non si può essere a vela e a vapore? Se io fossi a vela e a vapore... No, io lo dico per me. Cioè, se io fossi bisex... Io ormai sono un treno a vapore, hai capito? Vado solo a vapore, non vado più neanche a corrente, tesoro. Tu vai solo a vapore ormai, cioè molto lentamente e solamente con gli uomini, vabbè, d'accordo, e anche molto lentamente. Però io dico una cosa, Parenzo, che cosa hai preso oggi? No, sto dicendo un attimo a Parenzo, che cosa hai preso, Davide? Ho preso, stavo recuperando anche il tweet di il quotidiano Libero, Libero Quotidiano, che ha scritto che ti saresti, ma riferisco, non è che dico io, che ti saresti fidanzato con una signorina di Udine e di 20 anni più giovane e che saresti pure diventato fedele. Ora, mi pare amore, tutto... io non ci credo neanche per il del mondo. Ma infatti Dago ha scritto ciao core, ci avrebbe promesso fedeltà. Ora, lasciamo perdere l'oggetto della discussione perché trattasi di voci, ma che io possa essere fedele, possa essere fedele, caro Cristiano, è impossibile. Gli uomini come te non bisogna mai chiedere niente, perché già si sa quello che vogliono. Io lo lascio dire a te. Chiedere a me la fedeltà. Ma è vero di questa signorina, allora. È come chiedere a Cristiano Malgioglio le fedeltà. Ecco. Come chiedere a Cristiano di dare un bacio sulla lingua a una donna, diciamo, in questo momento. Una volta veramente è successo con Belen. Con Belen? Ho baciato Belen e ho vomitato per una settimana. Ma veramente hai vomitato per una settimana? Beh, amico mio, tu settimana. Hai qualche... Beh, ma insomma, come cioè, si ma fa? Tu ci stai dicendo una cosa clamorosa. Pazzesco. Ma come si fa? No, ma sono Malgioglio. Avevamo fatto uno sketch per quelli che il calcio, mi ricordo, lei era uscita dall'isola. E a un certo punto poi c'è stata questa scena di io avevo chiuso la bocca, lei invece mi ha aperto la bocca, mi ha dato una slinguata e io purtroppo sono stato male per una settimana. Ma come sei stato male? Ma ci sono milioni di italiani che ti stanno ascoltando, di maschi che ti vorrebbero prendere a calci per quello che dici. Quando siamo uguali, scusa. Ma ha ragione Cristiano, se gli ha fatto schifo, ragazzi, ha baciato Belen sulla bocca con la lingua. Ma c'è delle regole comunque, ha vomitato. Ma milioni di italiani in questo momento maschi ti stanno ascoltando, dicono questo è pazzo. Più Malgioglio meno Mattarella, più Malgioglio meno Mattarella. Tra l'altro l'abbiamo chiamato perché qualcuno ha accostato le due figure. Dopo la pubblicità Malgioglio ci racconta tutto sui suoi capelli e su quelli del Presidente della Repubblica, perché ha ricevuto in queste ore mail, telefonate, richieste di interviste, eccetera. Pare che siano simili ed effettivamente, mettendo le due foto accanto, fate un po' anche voi questo esperimento, Malgioglio Mattarella, e qualche similitudine c'è. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Allora ragazzi, però decidiamoci, Parenzo, o Berlusconi è ancora un pregiudicato, un pericoloso pregiudicato secondo alcuni, oppure no. E allora Mattarella, che invita Berlusconi, che invita Berlusconi domani alla cerimonia di insediamento, ti credo. È il leader di un partito, scusa. Sì, d'accordo, ma infatti per me va benissimo invitarlo. Però attenzione, cioè, Berlusconi è formalmente un pregiudicato, è formalmente una persona che sta ancora scontando fino all'8 marzo una pena attraverso i servizi sociali, e viene invitato ufficialmente, il Movimento 5 Stelle ha declinato, a presenziare alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica. Ma scusa, va anche alle consultazioni, ma che c'entra? D'accordo, però no, l'invito ufficiale. Ma qualora vi fosse una crisi di governo, il capo, lascia stare l'invito per domani, ovvio, ma qualora vi fosse una crisi di governo, il primo che viene chiamato è il leader di Forza Italia, e quindi ci va lui. Brunetta e Romani. Quindi non c'è contraddizione. Formalmente resta un pregiudicato che è i servizi sociali, e viene invitato domani alla cerimonia di inaugurazione della Presidenza della Repubblica da parte del Presidente della Repubblica, che lo invita formalmente. Ora qualcuno fa due passaggi, mette insieme queste cose: i 45 giorni di sconto a Berlusconi, l'invito al Quirinale per dire è stato sdoganato tutto, altro che patto del Nazareno. Però mi sembra che si vada un po' troppo in là, cioè si è passati dalla elezione di Mattarella contro Berlusconi alla giornata di oggi, in cui si dice ecco, il patto del Nazareno esiste ancora, Berlusconi invitato al Quirinale e ha preso anche 45 giorni di sconto. Allora, tutta questa trasmissione non sarebbe in piedi, non esisterebbe. E devo dire la verità, anche questa radio in parte non esisterebbe se non ci fosse stato un uomo straordinario che oggi è scomparso. Lo voglio ricordare il sorriso sulle labbra, non lo voglio ricordare con mestizia, non lo voglio ricordare con, anche se è stata una giornata drammatica perché ci sono stati funerali, ma lo voglio ricordare con il sorriso che aveva sempre. Una persona di radio, un pilastro non solo di questa radio ma anche della radio italiana in generale, perché è stato in tantissime radio ed è stato amato in moltissime radio. È una persona che non appare al grande pubblico, di cui nessuno sa niente, magari dal punto di vista della notorietà, eccetera, ma che invece faceva quel lavoro fondamentale, che è un lavoro tecnico, un lavoro amministrativo, un lavoro di costruzione di tutto quello che serve per andare in onda. Questa persona si chiama Fabrizio Guidi, che è scomparsa nei giorni scorsi qui a Milano. Io gli volevo particolarmente bene, ero particolarmente affezionato, e per me non è semplice affezionarmi a una persona, ma lo stimavo, era una persona con cui si poteva parlare tranquillamente. E purtroppo un brutto male se l'è portata via. Lo abbraccio ovunque lui sia, e lo abbracciamo tutti noi, certo, che ci abbiamo lavorato insieme e con cui abbiamo iniziato questa meravigliosa avventura. Ma c'è con noi Cristiano Malgioglio, che ha la stessa capigliatura. E poi Fabrizio avrebbe voluto che la vita continuasse, cioè che il lavoro continuasse anche oggi con una giornata drammatica, come se nulla fosse, però volevo ricordarlo lo stesso. Cristiano, mi sentite? Sì, dove sei? Che è successo? No, sono a casa, stavo ascoltando i vostri discorsi. Senti, no, ma hai messo il viva voce per caso? Nell'oltretomba sei, però. Aspetta, no, hai fatto bene, perché... Toglilo un attimo, tesoro. Aspetta, vabbè, un attimo, perché non so neanche come si toglie. Vieni qua, toglimi questo viva voce. Ma vieni qua chi? Vieni qua chi? Chi è questa gente? No, sta arrivando il ragazzo, un attimo. Ragazzo? Quale ragazzo? Come si fa? Un attimo. Ma che ragazzi? Ma c'è un'ostentazione, però, dai. Eccomi qua, scusami. Ma che è il tuo amante egiziano? Ma chi è amante? Io sono libero, sto aspettando te. Chi è amante? Sono così infelice. E come? Hai chiamato il ragazzo per farti togliere il viva voce? No, perché è il mio assistente, perché ho il telefonino nuovo, non so come funziona. Ma che cos'è, egiziano? Ecco. Cos'è? Ma chi è italianissimo? Italianissimo. Sono curioso. Mi dicevi, no, stavamo parlando del presidente Mattarella. Non ho capito. Ma quante telefonate hai ricevuto oggi su Mattarella? Guarda, tantissime, anche dal paese spagnolo. Ma no, veramente te lo dico, questa cosa è successa perché Alessandra Menzani, che tu conosci, sulla tua tremenza, ha fatto questo servizio e poi sono partiti tutti i siti, eccetera. Ma sai, è stata una cosa molto simpatica. Poi io ho cliccato, ho detto, ma ci somigliamo veramente. Ma secondo te c'è questa somiglianza o no? Ma forse dagli occhi, dal naso e dalla bocca. Dagli occhi, dal naso, però mi sa che lui è un po' distante da te come stile di vita, diciamo, no? Ma, lo, Ma lui è meraviglioso, lui è un classico, lui è un'altra cosa. È no? Quello che va con le suorine, tradizionale, lo ami, no, molto... lo ami. No, mi piace molto questo presidente, sinceramente. Beh, io non so che lui... Ma come lui uomo, saputo, come uomo ti piace? Non lo so, perché io non lo conosco, sicuramente sarà un grande presidente, quello che vogliamo tutti noi italiani. Vabbè, adesso questo... Questa è una cosa molto... Una Senti, cosa ma i suoi capelli come sono? Curati come i tuoi o un po' meno, diciamo? Ma io penso che sono molto curati i suoi capelli, lo sai? Sì. Perché ce ne sono tanti. Sì, sì. Sono dei, i suoi sono capelli naturali, i miei sono tinti, sia quelli neri che sia il biondo. Alla fine sono meglio i suoi, allora? Sì, sicuramente, sono molto più morbidi, i miei sono molto aspri. Sono molto aspri, poi i tuoi sono un po' costruiti, mentre i suoi sono proprio bianco naturale, bianco candido. Penso che i suoi sono bianchi, sono shampoo e balsamo sicuramente. Però ecco, diciamo la verità, che Cristiano Malgioglio e Sergio Mattarella, e così nell'immaginario sono due persone totalmente agli antipodi, diciamo. Ma stamattina camminavo per strada e dicevo, ciao presidente, allora come... Dico, queste sono diventate rincoglionite, ma non avevo capito, ancora non era entrato nello spirito, no? Ecco, sto vedendo anche qua anche i tassisti, che tra l'altro io saluto ogni volta quando prendo il taxi, voi siete sempre presenti, meno male. Sì, no, ma sì, è vero, anche i tassisti, ciao presidente, buongiorno presidente, oddio mio, no, chiamatemi presidentessa, gli ho detto. Senti una cosa, Cristiano, che atto, quale sarebbe, scusami, il tuo primo atto che faresti se fossi al Quirinale, caro Malgioglio? Ma guarda, ti spiego subito, tesoro, io purtroppo di politica sono un intrenato, non capisco niente. Ma così a naso, la prima cosa che faresti? Ieri sera mi sono fermato perché c'era il nostro Giuseppe. Sì. E così ho voluto, è bello perché è aggressivo, mi piace molto, anche tu naturalmente sei molto bravo. Non so che cosa farei, non è molto difficile. Molto difficile dirlo. Magari ti porteresti anche questo signore che li contesta. No, io non sono un uomo di vecchi, non capisco niente. Senti Cristiano, però io so che tu vuoi dedicare a Sergio Mattarella, l'uomo dai capelli candidi, una persona che ti assomiglia, diciamo, dal punto di vista, è vero? Ho visto adesso queste due foto accostate, c'è un po' di somiglianza estetica. È molto sobrio, lui veste in grigio. Tu sei un po' troppo, diciamo. Lui è molto, devo dire che lui è molto più bello di me. Lui frequenta le suorine, tu mi sa che è suore. Ma io ho frequentato anche le suorine, io sì. Sono un uomo. Sei credente anche tu? Sono tanto cattolico. Lo vedi? Qualcosa in comune ce l'avete, magari, visto, ma avete un modo diverso, diciamo, di esprimere il cattolicismo. Beh, adesso lui, per esempio, quello inizia al Quirinale e Cristiano Malgioglio inizia con Chiambretti. Saranno due cose un po'. Scusami. Sono molto contento, inizierò con Grand Hotel. Certo. Dai, veniteci a trovare, per favore. Guarda, dia Chiambretti quando vuole. Io adoro. No. Adoro Chiambretti. Ecco, se voi cantate un pezzo con me, stile anni 40, tutte e due, saremmo altro che le sorelle Bandiera. Saremo pazzeschi. Ma vestite da donna, dici? No, da uomo smoking. No, che donna. Sarebbe già scontato. Sì, certo. Bene. Pensa tutte e due con me, con un trio pazzesco. Guarda, io ci penso. Seriamente, Parenzo, un'idea mi sembra geniale. Facciamo in modo che Parenzo possa fare bene anche questa esecuzione. Certo, questa esecuzione. Senti Cristiano, allora partiamo un attimo con la base, poi dedichiamo con un sonetto. Ascolta, tu Cristiano, inventa qualcosa. Ma purtroppo io adesso per esempio, ho in mente una mia canzone, che l'importante è finire questo grande successo di Mina che io ho scritto per lei. Adesso io, per esempio, se dovessi cambiare le parole, dedicare questo brano al presidente Mattarella, io direi: adesso c'è un presidente, sarà amato dalla gente, sarà grande sicuramente, e poi è un uomo elegante, si distingue fra tanti, è un uomo importante, e poi e di qua l'inciso, grande mio presidente, in bocca al lupo veramente, basta, così mi fermo. Beh, aspetta, mettiamo un po' la base, ripetiamo un attimo, scusami Cristiano, per la base. Epocale. Ma sei pazzo? Aspetta, base, vai. Questo è il pezzo di Mina. Vabbè, ma non c'è. Vai con le parole che dice di Mina. No, perché Mina ha un'altra tonalità, tesoro, non farmi fare brutta figura. No, scusa. Hai ragione. Ho fatto questa chicca straordinaria per voi. Se canto io insieme a Mina si sente qualcosa di... Assolutamente, qualcosa di, questa era il brano, il la piccola... Il mio affetto per questo nostro grande presidente. Senti, sarà Cristiano, ma presidente. Ti piace il fatto che Concita Wurst vada al Festival di Sanremo? Ormai quella va ovunque, l'abbiamo visto ovunque. Per cui no, non è una novità, modo, ormai vende il suo essere... Che si tagliasse la barba, che sarebbe molto più interessante. Ormai un Sanremo pazzesco questo. Ma scusa, la trans barbuta non ti piace? Sì, ma no, ma io conosco anche. E perché dici che si deve tagliare la barba? No, dico, sarebbe forse più interessante, non lo so, ormai l'abbiamo vista. Ormai non è una novità. Spero naturalmente che faccia una bellissima figura, la farà senz'altro, e che abbia un buon petto, più che altro. Va bene, no? Ciao Cristiano, a presto, ti abbraccio. Bene, ciao a tutti, ciao. Zanzara, tipi da zanzara. Tipi da zanzara. Roberto Torino, vai. La differenza sì, qua, buonasera. Eh? Dimmi, dai. Mi sente? Allora, senta, io volevo declamarle le note di una canzone. Declamarle, David, sì. Sì, declamarle. David, ti prego di farmi terminare l'intervento perché altrimenti potresti equivocare. Vai, forza, dai. Himmler addestrava le SS, grandi animatori di villaggi, per lei vacanze, ferie obbligatorie per gli ebrei di tutto il ghetto. Il problema era sempre quello, dove cazzo li metto? A Dachau, a Mauthausen, a Treblinka, ti ho dato una spinta, vai dentro la fossa, tua moglie la doccia, tua figlia Rachele la diamo a Mengele, chi vivrà vedrà, ma dove vai? Vieni qua, che fai? Da Dachau non scapperai, vieni qui, ma chi sei? Vieni insieme agli altri ebrei, vieni qui, anzi lì, nella doccia, Ziklon B. Allora, grandissima testa di cazzo Cruciani, tu ritieni che questo sia un esempio di satira? No, mi fa schifo. No, allora vaffanculo, e allora le tue battute del cazzo, credi che siano tanto differenti da questa canzone cantata dai 99 fosse, i 99 fosse. Ma che c'entra questo, scusa? C'entra, perché tu credi che le tue battute siano tanto diverse da queste. Io, a parte che non faccio battute, ne ho fatta le tue una. Le tue battute fanno schifo e io... Ma che tu lo sai vita, qual è la mia... fatto che lui ti stia al fianco. Raccontaci come ma tu lo vedi che è un poveraccio questo qua. Ma tu lo vedi che è un poveraccio questo. È uno che è un poveraccio, è offeso dalle battute che sono state fatte in generale su questa vicenda. Sulla morte di lui ti dice padre. Non si scherza sulla morte di alcune questioni. Questo dice. Tu che prendi per il culo mio nonno, mia madre, la nonna di Parenzo. Vabbè, ti lascio parlare perché. Persone e tutti loro. Ti lascio parlare perché sei disturbato, Roberto. Purtroppo sei disturbato. Disturbato sei tu. Sei disturbato. Come è morto tuo padre? Perché io una... Guarda, non ti rispondo, non ti rispondo nemmeno. Io la trovo, stronzo, perché io non posso prendere per il culo tuo Roberto, padre che è morto, Roberto. E tu puoi prendere per il culo mio nonno che è morto. Roberto, tu lo sai. Mia nonna che è stata da Auschwitz. Senti. È così che funziona a casa Roberto, tua. Roberto, calma, di merda. Tu lo sai cosa? Di merda. Sai cosa? Vabbè, ho fatto quella battuta e sono orgoglioso. Se ti sei offeso, non me ne frega una mazza, chiaro? Se ti sei offeso, non me ne frega nulla. Se ti sei offeso, non me ne frega niente. Ma non ho offeso milioni di persone. Stai zitto, cretino, imbecille. Ma va, ma smettila, va, ma vai a fare questa predica. Tipi da zanzara. Allora, Marco, provincia di Verona, vai. Marco? Marco? Io sono Marco, ma da Budrio. Da Budrio, dai, forza, dai. Volevo tornare a Mattarella che ha invitato Berlusconi. Sì. Beh, siamo allo schifo. Berlusconi ha interdetto i pubblici uffici. Dove la fanno il giuramento? In piazza? Siamo allo sarà, schifo. Sarà apriamo, in tribuna, sarà se ci va. Ma no, non tribuna di un pubblico ufficio, non ci sta. A parte che non credo che non possa entrare in un ufficio pubblico, è entrato... L'interdizione ai pubblici uffici. Ma che c'entra? Quella è per le cariche, per non può diventare funzionario pubblico, non può andare in Parlamento, non c'entra niente, non è che non può fisicamente entrare. Dai, su Marco, non essere stupido. Comunque è un problema, è un problema. Maurizio da Forlì. Salve. Vai, veloce, Maurizio, vai. Velocissimo. avete parlato di idiozie tutta questa sera, sì, proprio una cosa ignobile, sì. Io volevo dirvi solo questo: c'è una persona di 90 anni che per 9 anni ha guadagnato circa 2 milioni di euro in questi 9 anni, e in questi 9 anni l'Italia si è impoverita del 30%. Io invece di parlare di cazzate, mettete tutte le sere un bel politico che si è arricchito con i soldi di noi italiani e lo mettete bene, in bene inquadrato chi è. Per esempio, il nostro ex presidente ha guadagnato 2 milioni di euro. Mi spiegate cosa ha fatto? Troppo. Il problema è che hanno guadagnato troppo perché sono stati troppi anni in Parlamento. Bisogna stare poco in Parlamento, non bisogna stare 40 anni e campare col Parlamento. Questo sicuramente, su questo lei ha ragione, ma ci sentiamo domani alle 18.30. Ciao. Come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. I love you, I like a virgin. Radio 24, la passione si sente.